L'altra Europa. Sabato 9 gennaio, buongiorno, ben ritrovati da Federico Taddia. Sono 7 minuti dopo le 12 in diretta con l'Altra Europa, l'appuntamento di Radio 24 in collaborazione con Euronet Plus per raccontarvi, narrarvi l'Europa delle possibilità e delle opportunità, quella che è l'attualità economica e politica viene discussa, viene raccontata giorno per giorno da Radio 24 nei tanti appuntamenti. Noi il sabato cerchiamo di proporvi anche altri punti di vista, benché oggi insomma l'attualità strettissima entrerà comunque nel nostro programma. Le coordinate per seguirci anche virtualmente: radio24.it, il nostro portale da cui poter poi riascoltare la puntata, euronetplus.eu invece è il sito di riferimento del network con tante voci, tanti dossier, tante notizie in tante lingue diverse. E poi i social, chiocciola Federico Taddia, mi trovate sia su Facebook sia su Twitter, oppure chiocciola Euronet Plus R24, lì potete recuperare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo dal teatro. Si intitola Scene di interni dopo il disgregamento dell'Unione Europea. È uno spettacolo in scena in questi giorni, proprio dal 7 al 10 gennaio al Teatro India. È l'Europa unita, disgregata, che cerca i suoi responsabili. Un atto unico di Michele Santeramo per la regia, ed è anche uno degli interpreti, di Michele Sinisi, a cui diamo il benvenuto all'Altra Europa. Ciao Michele. Ciao Federico, ciao, buongiorno a tutti. Portare in scena l'Europa disgregata, da dove nasce questa idea? L'idea di scrittura è stata di Michele Santeramo, l'autore, sì, prodotto appunto questo spettacolo da Bottega Rosengilde e da Trattino dei Fondi. E quindi la cosa un po' nasceva dall'obiettivo comune di, penso sia un po' di tutti i teatranti, dare un segno, lasciare un segno in qualche modo nel mondo che ci è dato da vivere, quello contemporaneo, nel ruolo di teatranti, no? Partecipare al dibattito delle storie, delle questioni, anche dal punto di vista linguistico, di qualcosa che ci riguarda quotidianamente, ecco, non perdere quella partita all'essere presenti nel mondo odierno. Alberto e Silvia, i due protagonisti dello spettacolo, interpretati da te, dalla collega Elisa Benedetta Marinoni, una coppia accusata di essere di avere la colpa di questa disgregazione europea. Ci puoi raccontare un po' la trama dello spettacolo? Sì, nella trama praticamente si ipotizza il fatto che Alberto, all'interno di questa coppia, abbia a che fare con un gesto abbastanza eclatante che abbia contribuito in qualche modo alla caduta della comunità europea. Poi dopo, e quindi il tutto viene attraversato in scena attraverso delle stazioni temporali, partendo dal futuro e poi andando a ritroso, quindi partendo dal 2060 fino ad arrivare poi passando per il 2016, il presente, fino ad arrivare al 2002 all'entrata in vigore della moneta unica. Quindi questi interni all'interno di questa coppia sono immortalati sulla scena attraverso una specie di strisce, no? Fumettistiche per certi versi, e attraverso questo viaggio ritroso nel tempo si assiste alle motivazioni per cui sia la coppia che l'Europa si sono disgregate. In qualche modo si parte dalle conseguenze, no? Di una motivazione, di un trauma, come posso dire, una difficoltà, di un dramma antico. È uno spettacolo di speranza o uno spettacolo di rassegnazione? Guarda Federico, praticamente il rapporto con il concetto della disgregazione, per dirla molto praticamente, sì, organicamente, e in qualche modo sta a rispondere nella misura in cui non risponde, o viceversa, non risponde nella misura in cui risponde, no? A questa domanda, la speranza. Io in qualche modo ho messo in scena lo spettacolo lavorando sul concetto di disgregamento. Cosa vuol dire disgregare? Cioè il fatto che sulla scena quello a cui si assiste, si vuole raccontare, è l'incapacità di una comunità come quella europea di stare assieme, allo stesso tempo di questa coppia, no? Che in qualche modo viaggiano in parallelo queste due crisi. E, io a quel punto, cercando di non perdere poi la partita da teatrante col presente, no? Sì. Nel partecipare a questo grande dibattito molto sofisticato, se vogliamo, in cui come posso dire, inoltrarsi è a volte anche sconveniente se non si è tecnicamente preparati fino in fondo, perché tra l'altro è una cosa il cui processo è in divenire, noi non possiamo essere presenti totalmente noi stessi se non è sollecitata la questione, come spesso accade per i testi teatrali. A quel punto, nel voler non perdere drammaticamente il ruolo drammatico nel partecipare a questo dibattito, ho detto io al presente, quando poi si arriva al 2016 a ritroso, come posso essere iperpresente in teatro? Perché è un argomento che fuori è continuamente ribattuto, no? Certo. Si aggiorna continuamente, negli ultimi mesi sono stati pazzeschi nell'evoluzione di questo processo politico della comunità europea, perché sembrava fosse solo economico, adesso si sta parlando di politica pure, però vedi, già adesso comincio a dire cose magari che mi sfuggono in termini proprio nozionistici. A quel punto ho detto, io al presente che faccio? Metto in scena realmente il disgregamento cioè tra me e l'autore. Cioè Michele Santeramo ipotizza la totale incapacità all'interno della coppia e all'interno della comunità europea di poter convivere attraverso un unico pensiero, va bene? Un qualcosa che stia bene a tutti, che sia... Ora, io credo, dal mio punto di vista poi registico, dal punto di vista artistico, per quello che sì. mi è dato, no? Nell'interpretare quel testo di Santeramo, che il punto di vista, la crisi, non è per forza da intendersi come qualcosa di negativo. La crisi nasce nel momento in cui due forze, in qualche modo, e questo attiene molto al processo dialettico, no? È antitetico del principio drammatico, in cui due forze vengono a contendersi una tesi che sia unica, e da quella tesi, come noi tutti sappiamo, il processo dialettico poi dopo ci si incontra con un'altra tesi e quindi va avanti. Ora, questo è l'aspetto fondante in qualche modo della democrazia. Assolutamente, assolutamente. E quindi questa cosa non deve per forza trarci in inganno, comunicandoci, mettendoci ansia, tensione, tragedia. Non c'è per forza un'esperienza tragica in questa cosa. L'esperienza drammatica, e quindi io mi permetto di fare un parallelismo con il processo, cioè con l'esperienza repubblicana, cioè l'esperienza democratica, è un modo di stare, non è il risultato di un processo. Insomma, mi sembra un ottimo, adesso uso la parola esercizio, ma nel senso nobile del termine, una sfida, anche perché portare in scena l'Europa, no? Si cercano nuove forme di racconto, la vostra è sicuramente un ottimo esempio. teatrodiroma.net, il sito per tutte le informazioni, in scena anche oggi e domani al Teatro India. E il titolo, lo ricordo ancora, Scene d'interni dopo il disgregamento dell'Unione Europea. Grazie davvero Michele, complimenti, in bocca al lupo. Grazie a te, buon lavoro e buone cose. Ciao Federico. Un Europostit, il traffico poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. European Funding Guide. Sei alla ricerca di una borsa di studio? È nata EFG European Funding Guide, piattaforma che permette di cercare tra più di 12.000 borse di studio disponibili in Europa per un valore di 27 miliardi di euro. EFG European Funding Guide è cofinanziata dalla Commissione Europea e si occupa di diffondere informazioni e creare un contatto tra chi è alla ricerca di un aiuto economico per studiare e chi lo offre. Già dalla homepage si legge che le borse di studio non sono tutte basate su merito o reddito e che non sono poche come si potrebbe pensare e sono disponibili in ogni periodo dell'anno. In generale, 2/3 degli studenti europei non fa richiesta, quindi fatevi avanti! L'indirizzo per consultare la piattaforma è european-funding-guide.e. L'altra Europa. Das, was in Köln am Hauptbahnhof und an anderen Plätzen in Deutschland geschehen ist, ist nicht hinnehmbar. Es darf sich nicht wiederholen. Und die Täter müssen bestraft werden. Dabei wird zu klären sein, ob das, was sich dort ereignet hat, eine neue Form organisierter Kriminalität ist. Sono le parole di Heiko Maas, ministro della giustizia tedesco, che commenta i fatti di Capodanno a Colonia. E anche noi oggi, insomma, più di una settimana da quella notte, vogliamo tornare sull'argomento, perché ci sono aggiornamenti, ma soprattutto per capire quelle che sono le reazioni dell'opinione pubblica tedesca. In queste ore lo facciamo con un amico dell'Altra Europa, diamo il ben ritrovato ad Ambros Weiber, giornalista del quotidiano tedesco Taz. Ciao Ambros, buon anno. Ciao Federico. Ciao, ciao. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao, come ciao. Stai? Sto bene, grazie. Mi fa piacere. Allora Ambros, intanto gli aggiornamenti di queste ultime ore sui fatti di Colonia. Beh, diciamo il fatto più importante sicuramente è che si è dimesso il presidente della polizia di Colonia, Wolfgang Albers, si è dimesso ieri pomeriggio. Questo già da alcuni giorni era prevedibile, perché lui ha veramente fatto una brutta figura, più che altro diciamo nella comunicazione dei fatti. Sì. Ok. Sì. No, poi ci sono stati appunto i primi gli arresti dei 31 sospetti, si iniziano. Sì, abbiamo diciamo che gli ultimi numeri che io ho adesso, sì. Sono 31 che sono sospetti di un fatto criminale, e dei quali per esempio sono 9 dell'Algeria, 8 del Marocco, 5 dell'Iran, 4 della Siria, 2 hanno la cittadinanza tedesca e 1 per esempio addirittura la cittadinanza degli Stati Uniti. Allora, sappiamo anche che fra i furti più che altro di cellulare, ci sono sicuramente dei rifugiati. Perché questi cellulari sono stati trovati elettronicamente trovati in un campo dei rifugiati. Questo è sicuro, ma non si ha veramente diciamo sospetti sicuri delle violenze sessuali. Questo no. Mm-hmm. al punto che quanto ne sappia io. Ambros, quali sono le ricadute, non tanto politiche, queste insomma leggiamo tanto, però dell'opinione, ricadute emotive anche sui cittadini tedeschi, quali sono le reazioni prima a caldo ma soprattutto oggi, quindi a qualche giorno di distanza? Ma direi che le reazioni sono come la società tedesca attuale, no? La società tedesca è veramente è divisa su questa domanda dei profughi, sulla politica anche diciamo ufficiale della cancelliera, ma anche di ovviamente di altri partiti come i socialdemocratici e i verdi. Quelli che dicono che era un grande errore di diciamo quasi invitare la gente che è in fuga in Germania, ovviamente loro dicono adesso vedete che voi siete stati delle persone senza cura per gli interessi del popolo tedesco, delle donne tedesche, voi avete fatto un torto al popolo tedesco, e questa è la metà della popolazione forse. C'è un'altra metà che ovviamente dice state attenti, questi fatti sono insopportabili, non sono tollerabili, ma per esempio, lo dico ad un radio e ascoltatori italiani, diciamo quando sono arrivati i primi italiani 50 anni fa, sì. I cosiddetti Gastarbeiter in Germania, si operava proprio con gli stessi pseudo-argomenti, ma questi italiani ci portano via le donne, hanno un'altra civiltà, sono aggressivi verso le donne. Diciamo, non si può operare con questi pregiudizi. Dobbiamo adesso capire, per questo che ha detto Heiko Maas, il ministro della giustizia, quello che avete citato, sì. Prima, che se si tratta di una nuova forma di criminalità organizzata, secondo me è probabile, perché sappiamo da qualche anno anche a Berlino che ci sono delle bande che vengono dal Nord Africa, che vengono via la rotta balcanica, che sono delle bande che si organizzano nelle grandi città tedesche. Mm-hmm. E facciamoli lavorare le forze dell'ordine, la polizia, dicendo, e poi vedremo il risultato. No? Le donne tedesche hanno più paura oggi ad uscire di casa? Non direi, guarda, io sono di Monaco. Sì. Così da quando sono piccolo vado all'Oktoberfest, no? Sì. L'Oktoberfest sicuramente è cambiato nei decenni, ma comunque ogni anno all'Oktoberfest si ha una cifra enorme di violenza sessuale, cominciando che le donne vengono molestate, ma anche gli stupri. Adesso cosa facciamo? Chiudiamo l'Oktoberfest? No, dobbiamo adattarci che le feste si cambiano, e quando si vede come la polizia di Colonia ha organizzato questa festa davanti alla stazione, diciamo, questa non è una polizia questa è una polizia malissimamente organizzata, maladestrata, non hanno fatto niente. Mm-hmm. Si sono seduti lì e hanno detto non possiamo fare niente, poi hanno chiamato per altri poliziotti e questi i poliziotti non sono mai arrivati, per questo questo presidente Albers si è dimesso, no? Diciamo, è più che altro, secondo me, non è un scandalo dell'immigrazione, ma è lo scandalo di una polizia che non funziona, di dirigenti che non sanno cosa possono fare. E questo si deve dire, niente contro Colonia, ma questa cosa ha già una certa tradizione, okay, specialmente la polizia della città di Colonia. Mm-hmm. Grazie davvero Ambros per la tua testimonianza e buon lavoro, a risentirci presto qui all'Altra Europa. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Europostit. Seminario SVE a Malta. Siete operatori nel campo del servizio volontario europeo e siete interessati ad approfondire e condividere la vostra conoscenza in materia e a saperne di più sullo SVE di breve durata? Salto Youth, l'agenzia che si occupa di formazione in campo di fondi Erasmus+, organizza un seminario sul servizio volontario europeo dedicato a mentori, tutor e a chiunque sia interessato all'argomento. L'evento si terrà a Malta nei giorni dal 20 al 23 marzo 2016, durante i quali i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere tutti i modi per promuovere e implementare i programmi SVE a breve durata. Per avere maggiori dettagli, visitate il sito salto-youth.net e cercate il form di iscrizione. Continuiamo a parlare di Germania, in particolare di Berlino. Lo facciamo da un punto di vista particolare, che è quello del rapporto con un'altra città italiana. Questa città è Torino e lo facciamo attraverso un progetto, si chiama Viaggio Fronte Retro, progetto ideato dal Goethe Institute torinese, appunto. Due artiste, una tedesca e una italiana, si sono confrontate in questo viaggio a distanza. Andiamo a scoprire di che si tratta, lo facciamo con Elisa Talentino, illustratrice e protagonista appunto di Viaggio Fronte Retro. Ciao Elisa, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, grazie. Ciao. Allora, cosa hai combinato? Cosa avete combinato? Dunque, ci hanno lasciate andare libere nelle due città. Il progetto parte da due residenze gemelle, una a Torino con Nadia Budd e una a Berlino mia di quasi un mese. Uh-huh. E quello che ci hanno chiesto è stato di disegnare le nostre impressioni della città nella maniera più libera. Quindi abbiamo cercato con Nadia, ci siamo messe d'accordo per trovare una chiave comune. che inizialmente è stata quella della metamorfosi. Sì. E cioè cosa succede nel momento in cui ci si immerge in una città. A me particolarmente ha sempre affascinato la trasformazione che i luoghi esercitano sulle persone. Quindi quello che parlo per me chiaramente, quello che ho fatto è stato immaginare di essere la città in qualche maniera. Quante tavole hai realizzato? Ne abbiamo realizzate 12 ciascuna, fronte e retro, perché sono appese sotto il portico, possono essere viste da un lato e percorrendo da un lato e poi dall'altro. Ci sono prima le, insomma, da un lato quelle di Nadia, dall'altro le mie. Tra le 12 immagini che hai portato a casa, non ti chiedo se ce n'è una più rappresentativa delle altre, perché insomma immagino che sono tutti figli tuoi, quindi è difficile scegliere il figlio preferito, però ce n'è una che secondo te è meglio di altre, spiega il lavoro che hai fatto? Ma forse mi è più semplice di parlare di tavole preferite. Sì. Spiega è un po' difficile perché non abbiamo fatto un lavoro molto didascalico, ci siamo tenute lontane dal fare la guida dei luoghi delle città, anche perché abbiamo scelto dei luoghi abbastanza sconosciuti, insoliti. Ho deciso di non raccontare nel muro né nei luoghi più famosi della città. Forse una di quelle a cui sono più affezionata è quella dell'isola dei Pavoni, che è stata poi l'immagine rappresentativa del mio lavoro. Ho scoperto a Berlino una piccola isola a sud della città, sul fiume Wannsee, dove un centinaio d'anni fa un nobile aveva, per suo piacere personale, aveva liberato una trentina di pavoni. Sì. E questi pavoni ci sono ancora adesso, che girano liberamente ed è meta di turistica di anziani, nello specifico, di anziani, e poi c'ero io insieme a loro a far foto. Fantastica. ElisaTalentino.it è il sito, e ricordiamo che tutte le tavole sono esposte fino al 15 gennaio, piazza San Carlo a Torino, sotto i portici, lato est. Quindi alzate lo sguardo, immagino sono appese in alto? Sono... Sì. Okay. Fronte e retro, Torino e Berlino, viste, raccontate dagli occhi di Elisa e della collega Nadia Bad. Grazie davvero Elisa, complimenti, ottimo lavoro. Ciao, ciao, ciao, ciao. Un euro post-it e ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. European Pact for Youth. Cerchi o offri uno stage nuovo e di qualità? CSR Europe e la Commissione Europea hanno avviato l'iniziativa European Pact for Youth, che attiva 10.000 nuovi partenariati pubblico-privati al fine di creare 100.000 stage, tirocini, prime esperienze di lavoro, ma anche programmi di mobilità formativa e professionale e progetti di apprendimento formale e non formale. L'iniziativa si rivolge a imprese private e parti sociali, organismi di educazione e formazione, servizi per l'impiego pubblici e privati, insegnanti, educatori, studenti e genitori. L'obiettivo è creare opportunità nuove per chi è alla ricerca di bravi tirocinanti e per i ragazzi interessati a intraprendere un tirocinio. Per saperne di più, consultate il sito csreurope.org/pactforyouth. L'altra Europa. A Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia su Twitter e Facebook per avere tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Radio24.it, il nostro sito da dove poi poter riascoltare la puntata e trovare tutti i contributi extra. È l'Europa delle opportunità, l'Europa delle possibilità che ci piace raccontare, l'Europa che permette cambiamenti reali che poi vanno a impattare sulla nostra quotidianità. E in questa cornice abbiamo il piacere di presentarvi un progetto che vede Firenze protagonista. Firenze infatti ha vinto il bando Replicate dedicato allo sviluppo delle smart city, quindi città intelligenti per fare anche cittadini intelligenti. Nell'ambito del programma quadro Horizon 2020, Firenze è l'unica città italiana, le altre città sono San Sebastian in Spagna, Bristol in Inghilterra, 7 milioni e mezzo di euro per rendere la città più intelligente, quindi rendere la città più sostenibile. Di tutto ciò ne parliamo con Lorenzo Perra, assessore del Comune di Firenze al bilancio, fondi europei, fundraising, innovazione tecnologica e politiche del territorio. Buongiorno Perra, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tanto complimenti, perché insomma portare a casa sono soldi che fanno il piacere dei cittadini. Cosa vi siete inventati? Qual è il cuore del vostro progetto? Siamo molto felici di questo, dell'esito di questo progetto, non soltanto per le risorse. Innanzitutto è un progetto faro, per cui diventerà un progetto da cui le altre città europee dovranno poi replicare. Le future call, i futuri bandi si baseranno sugli esiti di questo progetto. Già questo è la prima volta che una città italiana lo vince. L'ha vinto anche Milano subito dopo di noi, quindi siamo insieme a Milano le prime città a farlo. Ci siamo inventati che abbiamo preso un quartiere di Firenze, una parte di Firenze che tra l'altro è quella in questo momento dove stiamo facendo le nuove linee tranviarie, dove è stata fatta l'università, dove è stato fatto il Palazzo di Giustizia, nuove residenze, e lì metteremo tutto ciò che di intelligente la tecnologia oggi offre. Faremo anche svilupperemo anche nuove cose, quindi illuminazione, quindi sistemi di retrofitting per riscaldare le case attraverso dell'acqua che scaldiamo d'estate e restituiamo d'inverno appunto con il calore, quindi sfruttando ciò che il pianeta ci consente di sfruttare, spendendo meno, offrendo servizi migliori, quindi una maggiore accessibilità alle cose. L'idea è proprio quella di, insomma, rendere la città più sostenibile, inquinare meno, alleggerire anche a volte il costo delle bollette per i cittadini. Sfide importanti, e in quanto tempo vedremo gli esiti di questo progetto? Dunque, il progetto inizia adesso, sì. Per esattezza il primo di febbraio. Nei primi 8 mesi noi faremo la progettazione di dettaglio, inizieremo ad installare tutte le attrezzature in maniera tale che entro il terzo anno del progetto, a partire da febbraio, tutte le attrezzature saranno installate. Poi avremo ulteriori 2 anni per verificare ciò che abbiamo realizzato. Quindi il progetto interamente dura 5 anni, ma in realtà in 3 anni completeremo l'installazione delle infrastrutture. Però quanto incide in tutto ciò il coinvolgimento dei cittadini? Nel senso, sono parte attiva anche in questa fase? Sto pensando anche proprio in termini di comunicazione, in termini di attivare feedback, perché credo che siano importanti al di là della bolletta più leggera. Lo sono molto. Tra l'altro, guardi, oggi mi trovo a una maratona dell'ascolto, che noi sono i town meeting che facciamo su quali argomenti. L'abbiamo fatto uno proprio sull'innovazione tecnologica e la città intelligente. Alcune delle idee che abbiamo inserito nel progetto provengono anche dalle sollecitazioni che vengono dal basso, che sono importanti, perché poi la tecnologia ormai è una cultura diffusa. Tutti utilizzano i sistemi per la prenotazione di una vacanza online. Vorremmo che quella velocità, quella semplicità fosse replicata in tutte le attività dell'amministrazione pubblica. www.comune.fi.it. Grazie davvero, assessore, in bocca al lupo, buon lavoro, poi ci sentiremo magari più avanti per conoscere anche gli esiti. Appunto, è un progetto replicabile, quindi è importante anche divulgare quello che funziona e anche quello che non funziona, perché i punti critici sono poi quelli che altri potrebbero in futuro correggere. Grazie ancora, buon sabato. Grazie a voi, arrivederci. Europost-it. Orobie Film Festival. Attenzione appassionati di cinema e di montagna. A Bergamo dal 18 al 23 gennaio torna l'Orobie Film Festival, che quest'anno festeggia la sua 10ª edizione. Orobie, patrocinato dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, è il festival internazionale del documentario di montagna e del film a soggetto, e promuove anche un concorso cinematografico dedicato alla montagna. Obiettivo della manifestazione è promuovere gli ambienti montani di tutta Italia e di tutto il pianeta, cioè le cosiddette terre alte del mondo, per una migliore conoscenza dell'ambiente, del territorio, della sua storia, della sua cultura, dei suoi paesi e delle persone che lo abitano. Per informazioni e per consultare il programma, visitate il sito montagnaitalia.com. I'm gonna write another traveling song about all the billion highways and the cities at the break of dawn. Well, I guess the best that I can do now is pretend that I've done nothing wrong and dream about a train that's gonna take me back where I belong. Well, now the ocean speaks and spits and progetti che iniziano, progetti che partono, altri progetti invece per il quale, anche se sono progetti giovanissimi, insomma, in parte già tempo di primi bilanci, e sono ben felice di raccontarvi questa iniziativa. Stiamo parlando degli Eco B&B. Di cosa si tratta? Lo chiediamo a uno dei suoi autori. Diamo il benvenuto a Simone Riccardi, che insieme a Silvia Ombelini è coordinatore del progetto europeo Eco Dots. Ciao Simone. Ciao Federico, grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, un network per il turismo lento, per il turismo intelligente, per il turismo sostenibile. Tante parole spesso usate, tante volte anche abusate. Voi invece avete trovato un centro con il vostro progetto. Di cosa si tratta? Grazie mille. Cos'è EcoBNB? EcoBNB ci piace raccontarlo come il luogo d'incontro tra viaggiatori responsabili e l'ospitalità che sta investendo in un futuro migliore. Con ospitalità intendo un agriturismo, una casa sull'albero, un igloo in montagna, ma anche una stanza a casa nostra o nel nostro appartamento, quindi anche ospitalità informale. Quindi dall'agriturismo al B&B a chi appunto decide informalmente di dare ospitalità. L'Unione Europea ha deciso di cofinanziare il vostro progetto nell'ambito del programma quadro per l'imprenditorialità e l'innovazione. Un progetto che appunto è in piedi da una ventina di mesi ormai? Sì, direi di sì, mm-hmm. Sì, corretto. Che cammino è stato fatto appunto in questi 2 anni? Ok, se vuoi posso magari anticipare il bando europeo con un breve racconto di come è nato Airbnb. Mi piace raccontarlo in questo modo. Ero invitato al Politecnico di Potenza per parlare di User Generated Cities, che era il tema del mio dottorato di ricerca. Perciò dovevo alloggiare per un paio di giorni fuori casa, al che ho pensato che avrei voluto dare i miei pochi soldi a qualcuno che poteva offrirmi un tipo di ospitalità ecosostenibile e con cui poter scambiare 4 chiacchiere su argomenti di interesse comune. Ebbene, non solo non ho trovato nulla di tutto ciò, ma mi sono accorto che esisteva però qua e là, esistevano delle realtà di ospitalità meravigliose, come ad esempio il Centro Pantarei, Libera Università di Alcatraz in Umbria, il bed and breakfast Cancabaia Parma, Felce Rossa Casa di Paglia sotto le pendici dell'Etna. Quindi da sud a nord tutta l'Italia è disseminata di progetti di ospitalità meravigliosi. Quindi con EcoBNB abbiamo messo in rete tutte queste realtà e abbiamo creato un motore di ricerca che consente di trovare e prenotare le proprie vacanze o un weekend tra innamorati o anche un breve soggiorno per lavoro, tutto questo in pochi click. Dalla sua prima idea alla sua vera e propria esecuzione sono passate, come ti dicevo, alcuni anni. Nel 2012 ho vinto una rarissima borsa di studio Fulbright Best che mi ha portato in America presso UCLA a Los Angeles, dove ho studiato Business Management, e nel 2013, anziché farmi le vacanze estive che avevo programmato a New York di ritorno verso Los Angeles, con un'idea diciamo suicida si è deciso di applicare per un progetto europeo. E mi ricordo bene di aver passato 30 giorni circa di fila a lavorare 16 ore al giorno, dove ogni mattina quando mi alzavo c'era un problema da risolvere e assolutamente poche ore per via del fuso orario, perché poi dovevo contattare l'Europa. Certo. Il bando richiedeva, oltre alla stesura del progetto, l'adesione di partners da almeno 4 nazioni, un ministero e un ente locale. Tutto questo da eseguire in poco più di un mese. Quindi diciamo che le due grane più grosse, chiamiamole grane, ma in realtà diciamo, complicazioni che abbiamo dovuto affrontare sono state dover trovare in breve tempo, quindi in un mese, un ministero disponibile a collaborare e un ente locale. Sul ministero, in Italia, pur avendo buoni contatti, discreti contatti, abbiamo tentato invano di avere una firma mai ricevuta. Ok. Il nostro partner serbo ci ha detto, che non aveva nessun contatto al ministero, ci ha detto: ah, se volete ragazzi io posso andare al ministero, suono il campanello, entro dalla porta e posso chiedere se sono interessati. Ok, in 2 giorni abbiamo avuto l'ok dal ministero serbo, è una cosa incredibile ma è vero, insomma, e sono attualmente nostri partners in questo progetto. Mentre invece sull'ente locale, visto che abbiamo radici emiliane, come si sente probabilmente anche dal mio accento, abbiamo pensato alla regione Emilia-Romagna e con grande sorpresa abbiamo ricevuto una risposta via email da questa funzionaria delegata che la regione non sosteneva progetti di piccola e media impresa, che era il contrario di quelle delle loro linee guida politiche. E non ci volevo credere effettivamente, però l'email è ancora lì e abbiamo perciò posto la stessa domanda al comune di Parma sotto il sindaco Pizzarotti e siamo stati lì accolti a braccia aperte, anche perché avremmo portato al comune qualche decina di migliaia di euro che non facevano male assolutamente a quel tempo. Simone, ti chiedo un minuto, ci fermiamo per il traffico, poi torniamo immediatamente da te. L'altra Europa. L'altra Europa, siamo sempre in compagnia di Simone Riccardi, www.ecobnb.it, il portale di riferimento del network da lui ideato e coordinato insieme a Silvia Ombelini. Simone, prima di salutarci, adesso quante sono le strutture censite e soprattutto l'Europa, comunque i paesi partner, sono più avanti nei confronti dell'attenzione verso questo tipo di turismo? Allora, quante strutture? Intanto sono circa 1600 le strutture, di cui oltre un migliaio sono in Italia. Sì. Alla seconda tua domanda, se l'Europa è più attenta a questo, non tutta l'Europa, sicuramente il Nord Europa, la parte dei paesi di lingua germanica, quindi Austria, Svizzera Germania sono assolutamente molto attenti a questi temi e quindi sono pronti a questo tipo di ospitalità. Addirittura avevano già dei network creati, non siamo i primi ad essere presenti in questo tipo di mercati. Prossimo obiettivo, prossimo step, prossimo sogno? Il prossimo sogno è riuscire a raggiungere in modo capillare l'Europa e riuscire ad offrire agli europei, diciamo, ma anche al mondo intero, la possibilità di viaggiare in modo ecosostenibile senza avere una grossa impronta sui nostri viaggi. Da quando ti sei buttato in questa avventura, viaggi di più o viaggi di meno? Viaggio di più, ok. Hai trovato il modo di coniugare appunto lavoro e passione. Grazie davvero Simone, complimenti. Ok, grazie Federico. Ciao, buon lavoro a tutti. A te, ciao ciao. Rimaniamo sulla via Emilia da Parma, ci spostiamo di qualche chilometro verso Modena e lo facciamo per incontrare un liutaio. Diamo il benvenuto a Lorenzo Frignani. Ciao Lorenzo, benvenuto all'Altra Europa. Pronto? Sì, pronto. Eccolo qua, ciao ciao ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi, salve. FrignaniLorenzo.com, do subito il sito internet, una lunga esperienza, una bellissima storia anche che adesso andremo a raccontare. Partiamo però da questo Leonardo Guitar Project, un progetto all'interno di Erasmus Plus. Di cosa si tratta? Ma questo progetto è un progetto triennale, è partito circa un anno fa, nell'ambito del quale stiamo sviluppando una serie di sperimentazioni sulla costruzione, in questo caso in particolare, di strumenti a pizzico, di chitarre, utilizzando materiali non tropicali per la costruzione di tutte le parti dello strumento. La questione del materiale non tropicale nasce da un'esigenza degli ultimi anni, conseguentemente alla difficoltà di approvvigionamento di tutte quelle che sono materie prime come palissandri, ebano e vari altri, mogami eccetera, che sempre più rientrano dentro una classificazione di restrizione sulla loro commercializzazione e di conseguenza anche la loro reperibilità. Tu sei l'unico italiano che partecipa a questo progetto, ma quando si parla di liuteria, gli altri paesi europei guardano all'Italia? Beh, diciamo che noi abbiamo una antichissima tradizione, soprattutto dal punto di vista della liuteria classica, quindi il quartetto classico, strumenti ad arco in particolare. Ma abbiamo anche una lunghissima tradizione per quello che riguarda gli strumenti a pizzico. Fatti pensare che nel 5-600 a Bologna esistevano circa 300 botteghe di liuteria che sfornavano liuti per tutta Europa. Cosa vuol dire oggi fare liutaio? Ma oggi fare liutaio diventa duro dire cosa significa, perché è un lavoro molto particolare. Un lavoro molto particolare, molto affascinante, che attrae anche molti ragazzi giovani a, diciamo, destreggiarsi in questo tipo di lavoro. Il lavoro però è molto complicato, è una questione abbastanza tosta, perché richiede un'altissima specializzazione e un know-how di conoscenze veramente molto ampio, per cui quello che è apparentemente molto bello è comunque molto difficile da raggiungere, soprattutto per riuscire a maturare un alto livello di specializzazione. E tu ti occupi molto anche di formazione? Io mi sono sempre occupato anche di formazione, almeno da una ventina d'anni a questa parte, considerando che sono circa 35 anni che mi dedico a questo tipo di lavoro, e l'ho fatto a vari livelli, a vari titoli, anche attualmente nell'ambito di questo progetto triennale, appunto, del Leonardo Guitar Research Project, che è questo progetto europeo di cui accennavamo poc'anzi. Mi occupo di accogliere qui ragazzi provenienti da diverse scuole di liuteria europee, sia ragazzi che frequentano i corsi di liuteria, sia docenti anche che lavorano presso questi istituti, per fare uno scambio di esperienze. Non è la questione che vuole mettere in cantiere una sfida, una comparazione a chi è più bravo, ma semplicemente è un discorso molto aperto e io ritengo anche molto intelligente, cioè che è quello proprio di scambiare sul campo le reciproche esperienze, perché per quanto io ne sappia ho sempre da imparare. Chi comincia chiaramente ha anche lui molto da imparare, ma tante volte anche noi che si insegna, cioè si apprendono sempre molte cose da chi viene per imparare. Certo, sono approcci diversi, immagino. Sono anche approcci diversi, chiaramente, però ecco. diciamo, un ragazzo con poca esperienza vive comunque ancora con molta spontaneità e delle volte tramite lui si scoprono delle ovvietà, se vogliamo, delle banalità che non abbiamo mai considerato. Ma è un patrimonio culturale quello della liuteria in generale a rischio o è consolidata la sua memoria? Ma la memoria diciamo che è consolidata, ma è una cosa che va sempre e continuamente sostenuta. E in quella direzione io, che sono comunque di base una persona molto curiosa, mi sono sempre adoperato, perché poi qualche anno fa avevo anche aperto la mia attività all'editoria, in particolare sul fatto di scrivere libri o riscrivere libri traducendoli da lingue straniere in lingua italiana, soprattutto libri vecchi o antichi, che ritenevamo con il mio collaboratore importanti e interessanti per l'utenza e gli appassionati di questo mestiere, di questo lavoro, di questa arte. E quindi sì, è un campo aperto a tante cose, dove c'è molto da dire, dove soprattutto c'è molto da imparare sotto appunto il profilo della tutela, della conservazione di questo patrimonio che noi oggi possiamo visitare raramente in collezioni private, più facilmente in collezioni pubbliche museali, e dove c'è ancora molto da fare. Purtroppo qui poi tocchiamo un tasto dolente, che è quello della difficoltà dal punto di vista della situazione economica, della legislazione, eccetera eccetera, a poter poi intervenire concretamente su questo patrimonio, perché esistono veramente poche forme di sostegno dal punto di vista economico. Al di là delle materie prime che prima hai accennato, appunto, queste nuove sperimentazioni, fare il liutaio oggi, sì, lavorare come si lavorava secoli fa, o le nuove tecnologie hanno trasformato questa professione? Ma, diciamo che questo è un mestiere che è basato su una profonda storicità, quindi sicuramente c'è un aspetto di tradizione che si continua a perpetrare nel lavoro di oggi. Parallelamente nascono delle biforcazioni su questa linea di tradizione, che sono aperte in particolare per la chitarra, che è uno strumento più o meno legato a un classicismo storico, e quindi c'è ancora moltissima sperimentazione al riguardo. Questo riguardo appunto anche soprattutto alle materie prime, che possono andare dalle alternative linee da utilizzare per la costruzione delle casse degli strumenti, ai materiali più avanzati tecnologicamente, come le fibre di carbonio, latex o un'infinità di altri materiali. Certo. Leonardo Lunetta Guitar, leonettoresearch.com, questo è il sito di riferimento per il progetto all'interno di Erasmus Plus. Grazie davvero a Lorenzo Frignani. È vero che hai restaurato uno Stradivari in cambio di un caffè? Ma la storia in verità è stata in questo modo. Cioè, io conoscevo il proprietario di una chitarra di Stradivari. Consideriamo che ne esistono 6 al mondo di questi, sì, strumenti. Questa chitarra, tra l'altro, è visibile presso il Museo del Violino di Cremona, dove è alloggiata quasi permanentemente ed è fruibile la visita a questo strumento nella collezione esposta nel museo. E capitò un paio d'anni fa un incidente a questo strumento, un incidente di percorso. E venni contattato per poter restaurare lo strumento, cosa che feci, e tutto andò a buon fine. Poi dopo un anno capitò un altro piccolo problema, avevamo 48 ore di tempo per risolvere questo problema, che riguardava il distaccamento del ponticello di questa chitarra, e insomma avevamo proprio minuti contati. Morale della favola, il proprietario della chitarra parte da Aosta, viene a Modena, arriva alle 8 di sera, sì, io ho lavorato la notte per sistemare la cosa, gli ho detto di passare la mattina alle 8, perché avrebbe fatto in tempo ad andare in Germania, dove nel tardo pomeriggio avrebbero fatto la presentazione col concerto e la televisione tedesca. Alle 8 lo strumento era pronto, io insomma ero abbastanza provato dalla notte in bianco, ma comunque avevamo risolto la cosa. E quando è stato appunto il momento di parlare di cifre, ho preferito andarmi a prendere un caffè con questo signore e spedirlo nella direzione in cui doveva andare, e ci saremmo aggiustati un'altra volta. Grazie davvero Lorenzo, ciao e buon anno, ciao ciao. Altrettanto. Grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Andrea Roccabella, oggi alla parte tecnica, Claudia Schiattone in assistenza, Emanuele Brignoli e Silvia Righini, che come hanno scritto la puntata, l'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Ancora ciao, da Federico Taddia. L'altra Europa. In